9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 20 aprile, San Sara, un saluto a tutte le Sare, ce ne sono diverse che conosco, mi stanno a cuore, e lasciate, prima di entrare nel tema del giorno, che come da lancio sarà il mezzogiorno come tema centrale della bassa crescita italiana, che svolga una sola considerazione di amarezza del tutto personale per un paese che conduce una scelta e poi una controscelta in materia di una questionina un po' trascurabile, no? Il 25% del suo mix energetico, sto parlando della marcia indietro nucleare di ieri, con un dibattito pari a zero e con un coinvolgimento pari a meno di zero. Stiamo parlando appunto di una scelta che in teoria aveva identificato nel ritorno al nucleare il 25% della fonte aggiuntiva per soddisfare in maniera diversa dall'attuale il fabbisogno energetico italiano, e questa scelta che tanto ha fatto discutere è scomparsa nel nulla da parte dello stesso governo, che tanto aveva speso di argomenti per invece rimetterla al centro. Si dirà Fukushima, cosa vuoi aggiungere su Fukushima? Io ho una promessa con voi, ce l'ho dall'indomani dell'essere stato il primo giornalista italiano nelle ore immediatamente successive al sisma e allo tsunami che ha colpito l'impianto di Fukushima, oltre che le coste nordorientali, più estesamente del Giappone, per essere stato colui che ha fatto la prima valutazione di impatto sull'impianto, che ha suscitato decine di migliaia di mail polemiche e che ancora oggi non cambierei, mi dispiace dovervelo dire, ma ho un impegno con voi, quello di ragionare su ciò che è avvenuto davvero a Fukushima quando avremo quelli che voi considerate i dati completi. Tutti i dati fin qui accumulati ci dicono che siamo a un fattore moltiplicatore di distanza rispetto a Chernobyl. Io continuo a ragionare sul fatto che scelte di questo impatto non si fanno né sull'ondata emotiva, né ragionando su un sì, un no, un referendum, e improvvisamente scelte così importanti come la politica energetica di un paese che ha il mix più sventurato di tutti i paesi avanzati e per questo impone in bolletta tanto ai clienti individuali quanto alle imprese aggravi comparati, che sono anch'essi una delle ragioni di bassa crescita di lungo periodo del nostro paese, penso che non abbiamo ancora imparato nulla dopo Chernobyl e che la politica, come all'epoca fece una scelta irresponsabile, oggi ne fa un altro paio, ma di sicuro quella che pesa di più è quella del governo, visto che poi il governo che decide. Chiusa la parentesi, perché a furia di vivere in un paese in cui possiamo solo criticare errori, se l'alternativa è stare zitti perché così ti dicono che criticare è troppo facile, si diventa un paese poi incapace anche di ragionare. Ma il problema è che, come al solito, i costi saranno vostri, cari ascoltatori, qualunque sia la vostra natura di cliente rispetto alle reti energetiche italiane. Non può un paese che compie decisioni così pensare di uscire davvero dal suo sentiero della bassa crescita, perché sono scelte prive di elementare ragionevolezza. La ragionevolezza impone fredde considerazioni, dati alla mano, e scelte comparate degli altri paesi alla mano, non colpi di testa emotivi per ritorni politici immediati. Questa non è la scelta di un paese serio. Oggi, chiusa parentesi, parliamo del mezzogiorno. Perché parliamo del mezzogiorno? Perché lunedì sulla stampa è comparso un articolo, a mio giudizio, illuminante, del professor Luca Ricolfi, che insegna analisi dei dati all'Università di Torino, editorialista della Stampa, di Panorama. Spesso lo abbiamo in questi anni disturbato perché la sua maniera di ragionare, dati alla mano, ha aggiunto, mia modesta opinione, un'ottica fresca e svincolata dalle appartenenze e dalle convenienze politiche al dibattito economico istituzionale italiano, soprattutto per esempio sulla questione del federalismo nord-sud eccetera eccetera. E proprio lunedì sulla stampa il professor Luca Ricolfi ha proposto un articolo dal titolo Nord-Sud, il paradosso della crescita, che aveva una tesi che non è quella tradizionale del dibattito nord-sud, tant'è vero che poi l'indomani, il martedì, ci sono stati poi editoriali commenti, diciamo così, di risposta alla tesi del professor Ricolfi, che hanno riproposto invece la tesi, quella alla quale siamo abituati. Allora, oggi abbiamo con noi il professor Luca Ricolfi, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Ecco, e in questa prima parte della trasmissione è con noi anche Marco De Marco, che è il direttore del Corriere del Mezzogiorno. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Allora, io partirei proprio dal far esporre al professor Ricolfi la tesi iniziale, che è una tesi inaspettata, a molti di voi sembrerà paradossale, perché professore, lei documenta dati alla mano che non è affatto vero che il Sud cresce meno del Nord, anzi, come stanno le cose? Ma io ho preso in considerazione il periodo per cui si hanno dati più a posto, cioè successivo al 1995, dati Istat mi riferisco, e ho tenuto fuori il periodo della crisi, perché la crisi è un periodo anomalo, e quindi il periodo considerato è 95-2007. Allora, cosa succede in questo periodo 95-2007? Che è un periodo abbastanza lungo, sono 12 anni, si può fare un bilancio. Succede che se ragioniamo sul PIL, il tasso di crescita del PIL del Nord e del Sud è sostanzialmente lo stesso. Se però ragioniamo sul PIL pro capite, che secondo me è l'indicatore più appropriato, abbiamo un sensibile vantaggio del Sud rispetto al Nord, nel senso che c'è convergenza e il Sud cresce significativamente più del Nord. Diciamo un 1,4 contro un 1,08-0,9. Questo fatto mi ha sorpreso, perché noi siamo, io stesso, e questo in realtà è un articolo autocritico quello che io ho fatto lunedì, perché io ho fatto parte della schiera degli analisti, degli osservatori, degli studiosi che in questi anni più volte ripetuto quella che io chiamo la litania o la giaculatoria, cioè l'elenco dei fattori di handicap dell'Italia, molti dei quali sono concentrati al Sud. Abbiamo le infrastrutture che non funzionano, abbiamo la giustizia, le infrastrutture che non ci sono, più che altro la giustizia civile che non funziona, tutta una serie di handicap, la criminalità organizzata, eccetera, tutti concentrati nel Mezzogiorno. Ci aspetteremo quindi che il Mezzogiorno crescesse di meno, e invece osserviamo che il Mezzogiorno, valutato in un certo modo, cresce uguale, valutato in un altro cresce addirittura di più. E allora mi sono fatto una domanda: ma perché questo succede? Allora, aspetti, prima di chiederci il perché e di inoltrarci sull'autocritica e poi di arrivare alle conseguenze, che sono le cose interessanti, diamo una risposta a chi obietta, rimanendo per così dire fedele al canone tradizionale, no, il Sud cresce di meno, a chi obietta, per esempio il professor Marco Fortis, che ieri sul Messaggero ha scritto, beh, insomma, mica tanto, perché se andiamo a vedere la crescita accumulata del PIL italiano 1995-2007, quindi negli stessi anni presi di riferimento dal professor Ricolfi, dice in generale complessivamente la crescita del PIL italiano è stata del 18,9% in termini reali contro il 20% della Germania, un divario di 1,9 punti percentuali a nostro sfavore. Tuttavia, io sto leggendo testualmente senza cambiare una virgola quello che ha scritto Marco Fortis, tuttavia la crescita del Nord Centro Italia è stata del 19,2%, già meno distante da quella tedesca, mentre l'aumento del PIL del Mezzogiorno è stato soltanto del 17,6%. Tra l'altro, praticamente uguale, 18, 17, 19 vuol dire sostanzialmente la stessa crescita, è quello che dicevo io prima. Però lei dice nel PIL pro capite si vede una crescita in quegli anni di 0,7-0,8 in più nel Sud. Certo, ma infatti i calcoli di Fortis non sono pro capite. Esatto. Però attenzione, su Fortis mi ha anche scritto, adesso io spero di avere il tempo in questi giorni di dialogare con lui, perché secondo me è uno degli osservatori più interessanti, su quello che dice Fortis. Io voglio solo far notare una cosa, che la Germania è cresciuta effettivamente pochissimo fino a qualche anno fa. Esatto. Come noi praticamente, poi improvvisamente è partita, ma sapete quando si controlla l'andamento della imposta societaria, qual è il paese dell'OCSE che ha avuto la riduzione più drastica dell'imposta societaria? È stata la Germania. Corretto, professore, sono completamente d'accordo. E allora tutto torna. Esatto. Allora, continuiamo però nel ragionamento per cui nella crescita pro capite, sorpresa, negli anni 95-2007 il Sud è cresciuto più del Nord. Di qua il ragionamento come si è sviluppato? Perché a questo punto dice, e come? E allora non capiamo niente. Com'è che poi complessivamente l'Italia cresce così poco? Allora, il ragionamento è molto semplice. Dato che la maggior parte dei fattori di freno dello sviluppo sono concentrati nel Mezzogiorno e il Mezzogiorno cresce di più del Nord, allora si vede che c'è almeno un fattore importante di impatto che invece favorisce il Sud, perché altrimenti non ci spieghiamo questo fatto. Allora, quale può essere questo fattore? Io ho preso in considerazione due ipotesi. Non l'ho scritto nell'articolo perché l'articolo è per i giornali, non è un saggio, però le ipotesi che io ho considerato sono due. Uno è che sia semplicemente una questione di livello di partenza, cioè è più facile crescere di più quando si parte da indietro, è il caso di tutti i paesi che decollano, no? La Cina, l'India, eccetera. Allora il Sud potrebbe essere da questo punto di vista una porzione del paese talmente indietro rispetto al resto da avere una maggiore spinta da questo mero fatto di partire svantaggiato. Quindi ci sarebbe semplicemente un processo di convergenza. Seconda ipotesi, se accettiamo l'idea che un fattore importante di impatto sulla crescita sia la pressione fiscale, può essere che il Sud abbia un vantaggio in termini di pressione fiscale. Perché? Non perché le aliquote sono diverse, perché ci sono agevolazioni e cose del genere, tutte cose contano pochissimo, perché poi ci sono anche svantaggi oltre che agevolazioni, no? L'IRAP è più alta nelle regioni che hanno la sanità fuori quadro, eccetera. Il vantaggio del Sud è semplicemente che ha fatto già da molti decenni quello che Bossi predica in Padania, cioè un'autoriduzione delle aliquote. L'evasione fiscale è molto più intensa nel Mezzogiorno, diciamo un 55% contro un 20% di intensità di evasione fiscale tra Sud e Nord. Allora, l'evasione fiscale significa autoriduzione delle aliquote, quindi la pressione fiscale effettiva nel Mezzogiorno è molto bassa e questo fattore spinge il Sud. Questa è la mia ipotesi. Perché ho scelto questa e non l'altra, quella della convergenza? Ma naturalmente perché ho fatto dei test, cioè io ho fatto un'analisi sia regionale che provinciale, ho provato le due ipotesi, quella della convergenza è crollata, è incompatibile con i dati, quella invece dell'evasione fiscale ha sorpreso anche me, fitta perfettamente con i dati, cioè c'è una precisa relazione statistica fra l'intensità dell'evasione fiscale e la crescita e la velocità della crescita in termini di PIL pro capite. Professore, se allora assumiamo che l'ipotesi che avanza delle due che ha fatto seguire ai suoi dati per interpretarli, cioè la prima, quello convergenza da bassa punto di partenza, secondo, autoriduzione applicata alla compliance fiscale, all'adesione spontanea all'osservanza delle norme fiscali, assumiamo che sia questa seconda ipotesi. Se fosse vera questa seconda ipotesi, tutti coloro che sostengono che per la crescita aggiuntiva al Sud, per colmare il divario, ulteriormente lì bisogna concentrare aree di fiscalità differenziata e agevolata, da anni si dice bisogna fare il negoziato con Bruxelles per fare cose di questo genere, e probabilmente avrebbero forse torto, nel senso che paradossalmente potrebbe avere ragione chi dice che bisognerebbe, se mai si potesse farlo discrezionalmente in maniera geografica, non per i decimali come si farà col federalismo fiscale, come sta uscendo da questo sgorbio dei decreti attuativi, ma più al nord che al sud bisognerebbe concentrare gli sgravi. Ma senza dubbio, questo non significa però per me che una politica di sgravi nel sud non sia opportuna. Io ho in mente la proposta di qualche anno fa di Falasca e Lottieri di una non tax area per il sud, finanziata con l'azzeramento degli incentivi, cioè il sud ha dei problemi di razionalizzazione, cioè è molto diverso se le tasse sono autoridotte nell'illegalità e con il lavoro nero, oppure se le tasse vengono ridotte dal centro e vengono fatte però rispettare le aliquote legali vigenti. Io vedrei bene che la pressione fiscale nel sud restasse quella che di fatto è attualmente, cioè molto bassa, però in modo legale, quindi facendo pagare gli evasori ma tenendo le aliquote più basse. Quindi io non sono contrario a abbassare le aliquote nel Mezzogiorno, purché appunto questo sia parità di gettito e quindi eliminando tutti i contributi a pioggia o discrezionali che vengono erogati, che sembra che non funzionino da molti analisi che sono state fatte. E ricordiamo, Falasca e Lottieri sono due dei soliti appartenenti di questo buon leone a cui appartengo anch'io, noi poveri mosche bianche liberiste. Allora, fermiamoci un secondo con... Volevo solo darle ragione, però sull'altro pezzo del discorso, naturalmente dobbiamo porci il problema di ridurre le aliquote anche al nord. Esatto. Però diciamo le due cose non sono incompatibili, perché al nord si può, al sud si può fare a parità di gettito, al nord si tratterà invece di trovare le risorse per abbassare effettivamente le aliquote. Allora, iniziamo a vedere nel direttore Marco De Marco questo ragionamento di paradossale riconoscimento che c'è un errore nella valutazione della crescita comparata nord rispetto a sud, con sud maggiore del nord negli anni pre-crisi, e poi con questa tesi interpretativa secondo cui c'è un'autoriduzione di massa delle tasse a spiegarlo, più che i tradizionali fattori dell'output, delle esternalità negative che gravano sul mezzogiorno. Che cosa induce in De Marco questi due elementi di questa riflessione un po' nuova sul sud? Anche io, come lei, Oscar Giannino, io ogni volta che Luca Ricolfi interviene sul mezzogiorno accendo un cielo a San Gennaro, essendo napoletano. Dopodiché però questa luce si fa un po' più opaca, anche in questo caso sta avvenendo lo stesso effetto. Cioè, del suo ragionamento, il sud cresce perché evade, a me convince più il secondo punto che il primo. Il sud cresce, allora avete già detto tutto, aggiungo altre argomentazioni che sono venute fuori nel corso del dibattito. Sul PIL in generale, se cresce non più, ma abbiamo appurato, cresce come il nord, altri invece sostengono che cresce addirittura meno. Sul PIL pro capite il calcolo è molto diverso. Perché il PIL pro capite cresce? Secondo alcuni, ed è abbastanza convincente, il PIL pro capite nel sud cresce perché il sud si sta svuotando. Cioè il sud perde residenti, in massima parte perde residenti qualificati, perché molti giovani del sud vanno al nord a lavorare. Poi l'emigrazione si concentra al nord e non al sud, e quindi quello che si divide per meno persone. E poi c'è un'altra argomentazione fondamentale, secondo me, che se questo è vero, come mai il dualismo non si riduce? E fino a qualche tempo fa abbiamo ragionato, e ancora io credo si possa ragionare, su un dualismo che è rimasto sostanzialmente uguale a quello degli anni 50 e 60. Aggiungo un altro elemento. Chi studia la storia del Mezzogiorno, penso per esempio al professor Galasso, ha notato questo, che in brevi lassi di tempo il sud ogni tanto fa una rimonta e si avvicina al sud, al nord, ma quando si analizza storicamente, e quindi dagli anni 50 ad oggi, poi questi scatti in avanti subito dopo hanno un effetto, si perde questo effetto. E ancora oggi ragioniamo fino al 2007, ma che cosa è successo poi dal 2007 al 2011 ad oggi? Nuovamente il sud si arretra, quindi ogni tanto il sud fa dei passi avanti, ma storicamente io non credo che si possa dire, come Ricolfi dice, che il dualismo si è azzerato addirittura, cioè cresciamo allo stesso modo, quindi non c'è più dualismo. Mi pare questa parte qua poco convincente. L'altra invece è molto convincente, del resto anche l'Agenzia delle Entrate l'ha detto, il sud evade moltissimo, e a me non convincono le giustificazioni di molti meridionalisti che dicono sì, c'è una tendenza al sud a evadere di meno, ma nella sostanza, poiché la ricchezza è al nord, si evade di più al nord. No, non è così, il sud evade in quantità potrei dire industriale, perché se a Milano si evade per una percentuale del 10%, in Calabria si evade per una percentuale che è pari al 60%, Ricolfi nel suo ultimo libro addirittura la quantifica all'80%, e la media è fatta da città come Napoli, dove ci si assesta intorno al 30%, ma il 30% è sicuramente tre volte quello di Milano. Quindi il sud evade troppo, e questa cosa non può essere difesa. Un ultimo esempio. A Napoli, dove si paga la tassa più alta d'Italia, cioè la tassa diciamo sui rifiuti, abbiamo scoperto che 2 su 4 napoletani non la paga. Questo è il vero dramma del Sud. E poi vorrei sfatare un altro mito: non è vero che aumentando le tasse si hanno servizi più qualificati. Oh, bravo professor De Marco. Faccio anche l'esempio della TARSU, dell'immondizia. Insomma, certo. Noi paghiamo la TARSU più alta d'Italia, ma vi pare che Napoli possa offrirsi a modello di efficienza della raccolta? Va bene, ora dobbiamo andare in pubblicità. Ripartiamo dal professor Ricolfi, che deve una risposta, secondo me, non tanto al direttore De Marco, ma per far capire a chi è a casa e magari non maneggia troppo bene statisticamente la differenza dall'aggregato di crescita complessiva o di crescita del PIL pro capite, per dare una risposta alla domanda se sia vero e fondato dal suo punto di vista che nell'analisi delle valutazioni del PIL pro capite possa influire lo svuotamento demografico e il fattore immigrazione. Adesso abbiamo la pubblicità, ma attenzione, non è certo con le alte tasse che si fanno i buoni servizi, solo con lo Stato che si concentra in un forte processo di aggregazione e disaggregazione di priorità, dove laddove è davvero necessaria la sua presenza e si riorganizza al meglio, e quindi dovendo tagliare spesa e dovendo tagliare le tasse si ottengono i migliori servizi. Date retta a queste povere mosche bianche che non contano niente, date retta, non date retta a chi vi dice il contrario, perché da decenni avete i dati delle serie storiche che vi dicono che chi vi ha sempre difeso il contrario, l'alta spesa e le alte tasse per darvi buoni servizi, guardatevi intorno, vedete che cosa vi ha davvero proposto e vedete se hanno ancora ragione o se non si tratta forse di fare scelte diverse, di considerare quelle piccole povere mosche bianche che con le loro luci vi dicono spesa tagliata, tasse tagliate per ricostruire uno Stato efficiente, se non abbiano per caso ragione loro dopo tanti decenni in cui nessuno ha dato loro retta. Allora, eccoci tornati in studio e riprendiamo da Ricolfi che dà una risposta alle osservazioni del direttore Marco De Marco sul PIL pro capite, perché il Sud si svuota ed è ripresa l'immigrazione, per così dire. Ma l'intervento di De Marco è molto articolato, quindi la risposta non è brevissima. Tra l'altro sono molto felice di poter fare questa discussione perché c'è un interlocutore che non fa la solita difesa di ufficio del Sud, che purtroppo capita di ascoltare così sovente. Allora, io mi concentrerei su un paio di punti. Sulla questione del usare il PIL pro capite o non usare il PIL pro capite, sarebbe un discorso molto lungo. Io non credo che sia decisivo. Potremmo anche accettare, io ho delle ragioni che non c'è il tempo di spiegare alla radio per preferire il PIL pro capite, però supponiamo, voglio fare un esercizio, dare ragione al mio interlocutore, supponiamo che sia sbagliato lavorare col PIL pro capite, che sia più giusto lavorare col PIL non pro capite. Resta il fatto che, primo, la relazione tra tasso di crescita ed evasione fiscale regge, anche in quel caso la spiegazione migliore dei tassi di crescita a me risulta essere a livello provinciale l'evasione fiscale, punto numero uno. In secondo luogo, anche se il nord e il sud crescessero uguale come risulta in termini di PIL, perché praticamente è la stessa velocità di crescita, dovremmo spiegare come mai il sud cresce come il nord, avendo tutti gli handicap su cui noi ci stracciamo le vesti da anni e anni. Cioè, noi continuiamo a dire il sud ha questo, ha quest'altro che non funziona. Cioè, il quadro che noi facciamo del sud è assolutamente disastroso. Se tutti i fattori che menzioniamo di handicap fossero all'opera, il sud comunque dovrebbe crescere meno. Quindi qualcosa ci deve essere che aiuta il sud. Allora, la mia ipotesi, confermata dai dati, è che questo qualcosa è una minore pressione fiscale. Quindi la mia prima risposta è: non entro in merito se è meglio un indicatore o l'altro, il fatto è che la mia ipotesi regge sotto tutti e due gli indicatori. Secondo punto, c'è convergenza o non c'è convergenza, le osservazioni di Galasso. È verissimo che il Sud ha dei periodi di recupero seguiti dai periodi di arretramento, però non è vero che il saldo sia zero. La storia del Mezzogiorno è stata ricostruita da degli studiosi che credo operino in qualche università meridionale, che sono Malanima e Daniele. Noi abbiamo aggiornato il loro lavoro recentemente come Fondazione David Hume e il quadro che viene fuori è abbastanza interessante. Qual è questo quadro? Nel lungo periodo, cioè dall'Unità d'Italia oggi, il Sud ha perso, rispetto alla situazione iniziale, ha perso colpi, cioè non è stato un buon affare per il Mezzogiorno unirsi all'Italia. In particolare è stato un disastro nei primi 90 anni, cioè fino al 1951. Ma dal 1951 in poi l'andamento del divario è stato sempre favorevole al Mezzogiorno, eccetto il periodo che va dal 1972-73, grosso modo, cioè da quando la Cassa del Mezzogiorno ha cominciato a funzionare meno bene, fino al 1995. Per tutto il resto c'è stata convergenza e complessivamente il divario oggi è minore di quanto fosse nel dopoguerra. Quindi è vero che c'è questo stop and go della convergenza, ma complessivamente c'è convergenza. Poi che il Sud abbia agganciato il Nord è una questione di punti di vista, nel senso che in termini di tenore di vita, secondo me l'ha agganciato e come, in termini di prodotto pro capite no, ma sono due punti di vista del tutto diversi, un conto è la capacità di produrre, un conto è la capacità di assorbire risorse e consumare. E infatti uno degli indicatori divaricati più paradossali è quello che, se andiamo a vedere dalle dichiarazioni dei redditi, il reddito disponibile ufficiale pro capite, e lo paragoniamo a quello del nord, i divari sono nell'ordine anche del 30, del 40, in alcune aree quasi del 50%. Se paragoniamo invece i consumi privati pro capite, la differenza è nell'ambito di uno 0, qualche cosa, 1%, e naturalmente proprio sul fatto che il tenore di vita, quindi i consumi privati, come diceva il professor Ricolfi, siano in buona sostanza convergenti e paritari, omologhi quantomeno con quelli delle aree più sviluppate, in presenza invece di redditi ufficiali pro capite così divaricati, ancora una volta ci deve interrogare. Sì, anche se dobbiamo dire una cosa per correttezza, per completezza del discorso, che è vero che il reddito medio disponibile pro capite in termini reali, cioè tenendo conto del potere di acquisto, nel sud e nel nord sono simili, però è anche vero che la povertà è molto più concentrata, esatto, al sud, sì, sì. Perché c'è maggiore diseguaglianza, certo. Però, cioè sia la iperricchezza che la iperpovertà sono concentrate nel mezzogiorno, c'è più polarizzazione, quindi il mezzogiorno ha un problema di diseguaglianza interna più che un problema di divario rispetto al nord, però resta vero che la povertà lì sta, non sta nel nord. Allora iniziamo a sentire alcuni ascoltatori. Rosario da Roma, prego Rosario. Buongiorno Giannino, senta, io vi devo ringraziare perché stamattina il professore che parlava dell'evasione al sud mi ha ulteriormente aperto la mente, perché e poi nel primo intervento io pensavo che si riferisse unicamente all'evasione sui redditi, poi invece si è spiegato, cioè ha ribadito che l'evasione per esempio tipo a Napoli dove non si paga la spazzatura. Sì, sì, questo era il direttore Marco De Marco che ha aggiunto alle considerazioni di Ricolfi. Sì, e quindi cosa ha pensato? No, perché io sul paradosso in Italia ho tutta una mia teoria che poi non è una teoria, io ho le mie esperienze di vita, insomma, no? Io so, e mi risulta anche a lei, che allora, il nord, io non sono antileghista, oltretutto tengo a precisarlo. Ma vabbè, ma venga al punto. Il punto è questo, che a parer mio, se al sud abbiamo 100 individui, di questi 100 individui, 98 vivono di reddito fisso, chi è fortunato ad averlo e che lavora, voglio dire, no? E quindi paga le tasse alla fonte. Sì. Quindi se c'è evasione sugli introiti, sui redditi, l'evasione dovrebbe sostanzialmente interessare 2% degli individui. Al nord invece abbiamo 98, 2% che vivono di reddito fisso. In Rosario, no, i suoi numeri non sono corretti. Quindi No, io ne faccio una questione, diciamo, non di previsione sulle percentuali. Sì. Al nord abbiamo un potenziale imprenditoriale naturalmente superiore a chi, sì, diciamo, vive vive sul fisso, sul reddito fisso, quindi non ha possibilità di evadere, ovviamente è palese che si evade molto più al nord che al sud, si dovrebbe evadere. Poi i dati del professore stamattina mi hanno un po' spiazzato. Ecco, devo dire, come vede, che invece non è così, perché l'intensità dell'evasione non dà affatto ragione a questo suo cosa. Ripeto, vedere un po' le cifre non aiuta, perché aiuta a levare i pregiudizi che uno si forma così, come idee generali, Rosario, non vale solo per lei, vale per tutti quanti noi e soprattutto per chi poi fa politica. Daniele da Milano, rapido, prego Daniele, come la pensi? Buongiorno Giannino, buongiorno agli ospiti. Volevo cercare di fare un'interpretazione che ribalti quella di Ricolfi. Basata su questo, non è che piuttosto che un fattore di vantaggio, cioè l'evasione al sud, ci sia un fattore di svantaggio al nord, o meglio due fattori, provo a ipotizzare. Uno, il fatto che avendo una pressione fiscale reale molto più alta, proprio perché c'è maggiore fedeltà fiscale, sì. Quella pressione fiscale serve a trasferimenti giganteschi verso le regioni del sud, che quindi beneficiano nella crescita del loro PIL anche di quei trasferimenti dalle regioni più fedeli fiscalmente e più ricche del nord, uno. Due, la composizione del PIL al nord, come anche Ricolfi ha messo nel suo penultimo rivo, quello sacco del nord, è fatta di più di quello che lui chiama PIL mercato. Sì, ma PIL mi piace che siamo una tribù di fan, perché facciamo le citazioni tra un po' capitoli alla mano dei libri di Ricolfi. PIL mercato. In buona sostanza il PIL, insomma, al nord è costituito di più da quelle attività che sono esposte al mercato e soprattutto alla competizione internazionale, e quindi a partire dagli anni 90, infatti, con la prima l'apertura delle frontiere, poi la moneta unica, eccetera, eccetera, ha subito, come dire, i contraccolpi di quei cambiamenti. Grazie Daniele. Antonio da Campobasso, prego Antonio. Allora, io provavo a mettere in relazione questa differenza del PIL locale col fatto che il pubblico impiego, che è grosso modo il 6% della popolazione, cioè 3.600.000 pubblici dipendenti, è concentrato prevalentemente al sud ed è lì responsabile del PIL pro capite in gran parte. Per cui le oscillazioni nel tempo sono innanzitutto di poca entità, e poi nel periodo preso in esame dal 95 al 2007 i contratti del pubblico impiego sono sempre andati aumentando. Soltanto dal 2000, dall'anno scorso in pratica c'è stata la manovra del governo che ha bloccato per 3 anni i contratti del pubblico impiego, ma in quel periodo gli stipendi pubblici sono cresciuti molto di più rispetto a quella che è stata l'economia reale di mercato che c'era invece nelle regioni del nord. Grazie Antonio, ancora queste ulteriori considerazioni aggiuntive sull'utilizzo del PIL pro capite invece che dell'aggregato PIL in quanto tale. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi ci ha raggiunto il professor Gianfranco Viesti, che insegna all'Università di Bari, a cui tradizionalmente affidiamo, ma non tradizionalmente perché così sembra mancare di rispetto, ma insomma una risposta invece che viene dal meridionalismo più critico, ecco, rispetto alla mancata convergenza, e vediamo quindi cosa ne penserà lui, cosa ci dirà lui di questo criterio di analisi di Ricolfi, a sorpresa sul fatto che il PIL pro capite è superiore al sud che al nord negli anni pre-crisi 95-2007, e poi soprattutto sull'autoriduzione fiscale di massa che diventa la vera frontiera. Se fosse vera, ed è vera secondo me, l'Agenzia delle Entrate probabilmente dovrebbe concentrare lì il più delle sue attenzioni che Befera rivolge invece ad altro. L'Agenzia delle Entrate, lo ricordo sempre, è in prima fila tra coloro che dicono: beh sì, lo sappiamo che l'intensità dell'evasione è maggiore altrove, però in realtà si evade molto più a nord, esattamente come il professor Ricolfi ha criticato, e io stesso sono tra coloro che criticano. Forse concentrare il più del, io a volte lo chiamo terrorismo, che si fa in materia di non solo accertamenti che hanno esecutività immediata con tanto di esazione patrimoniale, cosa che naturalmente lo Stato simmetricamente a me contribuente non mi riconosce affatto nelle partite in cui io sono invece il creditore che non vede affatto onorato il debito dello Stato. Ma diciamo, se concentrasse un po' di queste sue attenzioni non tanto dove c'è il più da portare a casa con una più bassa evasione di intensità, ma dove c'è una più alta evasione di intensità, beh, forse allora tanta forza da parte delle agenzie delle entrate, delle giacche grigie, mi sembrerebbe un po' meno demagogica. Strade. Eccoci tornati in studio. Allora, professor Gianfranco Viesti, buongiorno e grazie. Come rispondiamo alla tesi di Ricolfi e alla sua spiegazione anche dell'autoevasione di massa come elemento aggiuntivo, propulsivo della convergenza del Sud, al di là di ciò che viene detto? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Rispondere, sa, l'Italia è un paese libero nel quale ciascuno può scrivere sui giornali quello che crede. Beh, già questa, questa è una risposta, però. È il dibattito così, delle sensazioni, un conto è il dibattito scientifico. Diciamo, questa tesi mi sembra molto suggestiva, non mi pare che abbia particolari evidenze scientifiche che la confortino. Innanzitutto, quando parliamo di evasione, parliamo di stime. E dunque si potrebbe aprire tutto un discorso su questi numeri. Non abbiamo numeri certi, ma abbiamo per definizione stime. Quindi lei respinge con l'arteria ad alzo zero la tesi per cui la maggiore intensità di evasione è nel Sud? No, abbiamo delle stime, non abbiamo dei dati certi. Ci sono questi dati sull'IRAP che mostrano una maggiore evasione del Mezzogiorno che è collegata al lavoro nero. Per il resto non abbiamo dati certi, è possibile, è una cosa possibile, diciamo, non lo sappiamo. Che questa spieghi la maggiore crescita del PIL pro capite mi sembra un'ipotesi suggestiva, le ripeto, ma non particolarmente convincente. Non si capisce perché questo dovrebbe succedere in un periodo e non in un altro, cioè si dovrebbe ipotizzare che sia aumentata l'evasione fiscale al Sud negli ultimi anni, cosa di cui non abbiamo nessuna particolare evidenza. Diciamo, noi molto più modestamente spieghiamo il fatto che ci sia stata una lieve convergenza fra fine anni 90 e inizio 2000 con due numeri, uno è quello della popolazione, cioè il fatto che al nord è aumentata molto e al sud molto meno per i fenomeni migratori, e l'altra è che in quel periodo c'è stato effettivamente un discreto andamento del Mezzogiorno dovuto alle componenti dell'economia, quindi è stato un periodo in cui gli investimenti privati sono andati abbastanza bene, sono andate abbastanza bene le esportazioni, è durato fino al 2001-2002 e poi c'è stato un rallentamento, per cui da molti anni a questa parte la crescita è praticamente modestissima in entrambe le circoscrizioni del paese. E se dovessimo ragionare da questo punto di vista su cosa serve per alzare invece la crescita al sud e riprendere la convergenza nella sua analisi? Ma serve quello che serve a tutta l'Italia, cioè diventare un paese più serio, che abbia un ambiente nel quale lavorano le imprese che sia più favorevole, e quindi diciamo tutta la gamma dei problemi del paese che si ripercuotono nel Mezzogiorno in maniera più accentuata: costo e efficienza dei servizi pubblici, tutela dei contratti della giustizia e dell'ordine pubblico, e politiche per la crescita come quelle che si fanno negli altri paesi avanzati, quindi un grande investimento sulla istruzione e la ricerca in primo luogo, e un pochino di infrastrutture anche fisiche che servono molto al sud, ma molto direi in tutto il paese. Quindi non c'è una grande fantasia. Ecco, diciamo, quindi al sud serve ciò che serve a tutta l'Italia come misure generali per la crescita, non una strategia differenziata. No, la mia opinione in questo è proprio opposta a quella del ministro Tremonti. Penso che servano le stesse cose, naturalmente. Essendo generalmente ma non sempre più grave la situazione nel Mezzogiorno, serve un intervento più intenso, parliamo dell'istruzione o parliamo della giustizia o parliamo delle infrastrutture, diciamo dove il gap è più forte ci vuole un intervento un po' più intenso, ma i capitoli di un eventuale piano secondo me sono gli stessi per tutto il paese. Nessuno può negare che esista uno specifico problema Mezzogiorno, ma a me piacerebbe attirare l'attenzione sul fatto che esista un gravissimo problema che si chiama Italia in tutte le sue componenti, e dunque credo che questo debba essere affrontato. Professor Ricolfi, che dice l'osservazione di Viesti? Dunque, intanto un'osservazione di tipo metodologico. Sono d'accordo anch'io che bisogna produrre evidenze scientifiche, sono assolutamente d'accordo. Infatti noi abbiamo fatto un modello, abbiamo spiegato le differenze provinciali del tasso di crescita in questo modo, aspettiamo un modello alternativo, perché ognuno può menzionare i fattori che secondo la sua opinione sono influenti o non sono influenti, però finché non si fanno stime econometriche è inutile parlare. Noi le abbiamo fatte, i risultati sono questi, aspettiamo di vederne delle altre. Quando qualcun altro troverà una spiegazione più efficace, che funzioni a livello provinciale, cioè con un sufficiente numero di record, e io la prenderò in considerazione, altrimenti restiamo sul piano delle opinioni. Io ovviamente nell'articolo non ho menzionato i fatti. Non è un paper scientifico. Dietro queste affermazioni ci sono degli anni di studi. Detto questo, sono perfettamente d'accordo sia con Viesti sia con ascoltatore che è intervenuto poco fa sul fatto che in realtà il punto di vista andrebbe rovesciato, cioè il problema non è il sud, il problema è il nord. In questo senso io non sostengo affatto che improvvisamente c'è stato un aumento dell'evasione fiscale nel mezzogiorno, assolutamente. L'evasione fiscale, guardi, tutti Viesti dice che sono stime, sì, peccato però che queste stime siano praticamente le stesse in tutti gli studi che si fanno da metà degli anni 90 fino ad ora, sono strettissimamente correlate tutte le stime che si fanno dell'evasione fiscale. E inoltre queste stime hanno un grande potere esplicativo quando vengono inserite nei modelli, quindi certo sono stime, ma sono stime abbastanza robuste da quello che mi risulta. Detto questo, la mia tesi, e questo non l'ho scritto nell'articolo, quindi lo dico adesso perché vedo che ha creato un po' di equivoci, non è che negli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, negli anni 2000, improvvisamente il Sud si è messo a evadere di più. Il tasso di crescita del Sud in termini di PIL pro capite è del tutto analogo negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, è sempre quello, intorno all'1,5 e 1,8. Non è questo che è cambiato, quello che è cambiato è che il nord ha smesso di crescere e quindi si è creato questo differenziale a favore del sud, ma dovuto semplicemente al fatto che il nord ha smesso di crescere e allora ha fatto emergere il paradosso, cioè prima il paradosso non si poteva rilevare perché comunque il nord, nonostante non evada, cresceva di più, ma perché? Perché avevamo la svalutazione della lira, perché la pressione fiscale non era arrivata ai livelli a cui è arrivata. Ricordiamo anche che dall'81-82 fino al 1993 noi abbiamo avuto una continua, massiccia aumento delle aliquote. Il sistema economico del nord ha cominciato a risentire pesantemente dell'aumento delle aliquote negli anni 90. E allora lì il nord si è impiombato e il sud ha cominciato a crescere di più, ma non di più di prima, a crescere più del nord. Quindi sono d'accordissimo che non c'è stato un aumento dell'evasione fiscale, semplicemente noi oggi vediamo ciò che ieri risultava invisibile. Io mi ritrovo molto con queste conclusioni, io naturalmente non sono un economista da cattedra, non ho alcuna pretesa quindi di rispondere a parità di titoli o di credibilità pubblica, come è giusto al professor Viesti e al professor Ricolfi, ma ritengo che per esempio le obiezioni del professor Fortis al professor Ricolfi, Fortis è tra coloro che dicono il nord cresce come la Germania, il sud invece è molto indietro, risentono del fatto che si prendono andamenti temporali in cui non si capisce che il più della crescita tedesca è in questi anni, in questi ultimi anni, all'inizio degli anni 2000 la Germania era piantata dopo l'unificazione perché aveva costi pubblici altissimi, spesa pubblica altissima, pressione fiscale altissima, produttività molto bassa, era come l'Italia. Poi invece se uno prende quindi l'orizzonte temporale molto lungo e ci mette dentro gli anni in cui la Germania era piantata, gli anni in cui riparte perché fa delle scelte sulla finanza pubblica, basse tasse, bassa spesa e produttività nell'economia produttiva, non capisce che dopo c'è la grande crescita, quindi quello è ciò a cui bisogna pensare. Se pensiamo agli anni in cui la Germania fa queste scelte, nel nord l'aumento reale della pressione fiscale non fa altro che levare margini alla crescita aggiuntiva del nord. Il sud, io anch'io dai dati che vedo da anni, c'è il fenomeno di cui parla Ricolfi, cioè l'evasione è più elevata. Per il resto ci sono due grandi tendenze, chi è convinto che questa sia una lettura antropologica, io non ne sono affatto convinto, chi è convinto invece che da queste il politico dovrebbe dedurre che lavorare su equilibrio di finanza pubblica, cioè non fare follie che ci fanno andare nell'eurodebito, ma abbattere spesa con molte polemiche, perché significa toccare lobby, e abbattere tasse, soprattutto per liberare energia laddove c'è più crescita aggiuntiva da fare, cioè al nord, e in questo tirarsi dietro anche il sud con le esternalità negative che hanno bisogno di investimenti di medio e lungo periodo nel sud. Questa è la mia banale opinione. Tutto questo con la stupidaggine di dire sia nucleare o non nucleare in 5 minuti come si fa in questo paese non ha niente a che vedere. Questi sono finti liberali. Quando andranno a casa, forse chi la pensa come noi poveri mosche bianche avrà più possibilità di non essere deriso nel dibattito pubblico. Grazie al professor Viesti, al professor Ricolfi e a Marco De Marco. Grazie a voi ascoltatori. Appuntamento a domani.